Beatrice? Buonasera. Pronto? Buonasera. Ciao Beatrice, eccoci qua. Iniziamo questa diretta, una diretta particolare come abbiamo stavamo iniziando a inizio puntata e niente, iniziamo questa nostra chiacchierata con te, insomma. Ti ringrazio innanzitutto per il tempo che ci stai dedicando e iniziamo con la prima domanda. Beatrice, raccontaci un po' di te, dove vivi, che quella che fai? Eccoti qua, questa è la domanda del nostro amico Matteo. Beatrice, raccontaci un po' di te, dove vivi e che scuola fai? Allora, io vivo a Cologno Monzese, per la precisione vicino agli studi Mediaset, e il percorso di scuola che ho fatto, ho frequentato una scuola per disabili, cioè tutta la scuola dall'asilo fino alle superiori l'ho fatta in questo istituto per disabili, la nostra famiglia di Busisio Parini, e attualmente sto frequentando un corso di ristorazione. Ok, proseguiamo con l'altra domanda del nostro amico Luca. Il disegno è in parte il tuo mondo, nonostante le tue difficoltà. Cosa vuol dire, secondo te, essere un artista, nel caso tuo una fumettista? Domanda molto interessante. Da quando, diciamo che la passione per il disegno ce l'ho da quando ero bambina, e essere comunque un artista significa sicuramente espressione, è una passione che mi porto da molti anni, e sicuramente essere un artista è molto bello, però farlo di lavoro può essere molto difficile, nel senso che come saprei veramente come spiegarlo, perché il mondo dell'arte è comunque un mondo meraviglioso, però allo stesso tempo a livello lavorativo non è semplice. Ah, indubbiamente, anche bello. Perché essere un fumettista, cioè già essere un artista è complicato, essere un fumettista è sì. Anche vuol dire che uno è specializzato, insomma, quello che, insomma, io so che nel tuo caso sei un autodidatta, insomma. Sì, in realtà ho fatto qualche corso per perfezionarmi comunque nella tecnica. In particolare mi sono specializzato nella tecnica manga, e comunque sì, dietro un fumetto c'è un grande lavoro, dal concepimento fino a fare storyboard. Storyboard sarebbe la brutta della tavola. È presente tipo il tema di scuola, quando la maestra diceva esatto. Di fare la brutta e la bella. Ecco, esiste la brutta delle tavole, poi una volta approvato si fanno le matite, inchiostro, retini oppure colore, a seconda della tecnica utilizzata. Ok. È un lavoro molto bello, ma... Anche di precisione, diciamolo. Sì, di precisione, ma è anche molto impegnativo, perché ti porta a dover usare molto, dover dedicare molto tempo. Quindi diciamo che obiettivamente tu, cioè, oltre a preparare il fumetto, ti prepari prima, diciamo, studi anche i particolari dei protagonisti del fumetto, quindi diciamo che è un'esercitazione che fai praticamente quasi tutti i giorni. Non esattamente. Allora, per questo progetto in realtà non sono da sola. Sì, sì. Perché ho una collega che fa la sceneggiatura, e per quanto riguarda il fumetto, sì, comunque si parte prima dalla storia, ma questo è il processo, diciamo, che Si può anche essere usato anche per altri ambiti come il cinema, la stesura di un libro o anche opere teatrali, ovvero si parte prima dall'idea, dalla storia, quindi soggetto, e poi sceneggiatura, che sceneggiatura è lo scritto di quello che viene poi rappresentato nelle pagine. Perfetto, Beatrice. Allora, guarda, noi fai tante cose, ci eravamo anche sentiti per il discorso dei due pezzi musicali, quindi casomai ora facciamo una piccola pausa, mandiamo un pezzo che hai scelto tu. Fra i tanti che mi hai dato, il compito era quello di sceglierne uno fra tanti. Io ho scelto come primo pezzo il pezzo di Linkin Park, One Step Closer, quindi Bello. andiamo di play e poi proseguiamo la nostra chiacchierata. E questo è il primo pezzo che ha scelto Beatrice Tassoni per Jolly Roger. Ciao Bea, ritorniamo qui in diretta. Ci Ciao. senti? Perfetto, Sì, ci sono, ci sono. perfetto. Allora, io passo il mic alla nostra amica Alice che ti fa la prossima domanda. I manga e il Giappone ti sono di ispirazione. Raccontaci qualche aneddoto. Aneddoto, esatto. Questo sì, sono un po' nervosa perché è bello partecipare a questa intervista. E il Giappone sì, è una passione che mi porto da quando ero bambina. Sono una grande appassionata di Giappone, è un mio grande interesse. Infatti questa passione mi ha portato anche ad avvicinarmi al mondo dei manga giapponesi. In particolare, vabbè, i manga comunque. E la passione per il fumetto deriva anche dalla mia passione per i cartoni animati che guardavo da bambina, che non sempre erano giapponesi. Guardavo anche i cartoni animati americani come Leone e Cane Fifone, quelli un po' che passavano su Cartoon Network. E Tra l'altro questa mia passione per il Giappone mi ha anche portato a studiare la lingua. Infatti, Infatti questo volevamo sono chiederti. un'appassionata appunto anche della lingua giapponese. Frequenti anche una Infatti il scuola, un corso, cosa? giapponese l'ho imparato da autodidatta. Se mi posso permettere di dire anche qualcosa in Devi giapponese dirci qualcosa in per chi giapponese. ascolta. Allora, sono un po' emozionata. Minasan konnichiwa, Beatrice desu. Watashi wa mangaka desu. Yoroshiku onegaishimasu. Nihon ga suki. Nihon go benkyou shiteimasu. Ora però ci devi fare anche la traduzione, Beatrice, perché noi siamo Praticamente ho rimasti a bocca detto ciao a aperta. tutti. Ho detto ciao a tutti, sono Beatrice, sono una fumettista, mi piace il Giappone e sto studiando lingua giapponese. Poi è detto anche un po' fra di noi, è anche particolare, insomma, cioè non è una lingua che si studia tanto, cioè si studia ad esempio il giapponese, il cinese, scusami, si studia un po' l'arabo. È un altro Esatto, mondo. ma una curiosità, leggevi anche i manga, ovviamente, i primi manga che uscirono anni e anni fa? Leggere manga ho iniziato a leggerli, diciamo, di recente. In generale guardavo i cartoni animati alla TV. Ho iniziato magari con gli anime e poi i manga mi sono avvicinata di recente. Ho iniziato. Adesso non ho molto tempo per leggerli, però ogni tanto quando riesco cerco di leggermi qualcosa. Ok, senti, noi andiamo intanto con la prossima domanda. Allora, parliamo del tuo fumetto, Essere Bea, storia di una ragazza autistica. Ci racconti com'è nato e anche il perché? Il fumetto, innanzitutto, volevo presentare anche due persone, ovvero i miei collaboratori che sono Silvia Modio e Marco Madoglio. E sono i miei collaboratori. Infatti, l'ideatrice del progetto è Silvia Modio, Che noi che è salutiamo, se nostro. mi permetti, anch'io ho avuto modo di parlarci per telefono, una simpatica e bravissima persona, oltre che insomma molto disponibile, e noi di Jolly Roger la salutiamo. Infatti anch'io le do un grande saluto. E Silvia, che è questa fotografa reporter, lei ha ideato il progetto. Infatti noi ci siamo conosciuti anni fa perché ho partecipato a un suo servizio fotografico che parlava di albinismo. E per chi non conosce l'albinismo è una malattia genetica rara. Ovvero chi nasce albino nasce praticamente senza la protezione della pelle, quindi nasce con i capelli bianchi, pelle chiara, ma comunque non si ha protezione. E divagazioni a parte, il progetto è nato che Silvia mi aveva proposto di fare un fumetto sull'autismo perché voleva fare questo fumetto che sensibilizzava sull'autismo e ha chiesto a me, dice, visto che sai disegnare, ti propongo di disegnare questo fumetto. E poi mi ha detto, oh, guarda, visto che il fumetto sarà fatto da una persona autistica, perché non fare una storia basata sulla tua vita? Quindi infatti la storia sarà un po' autobiografica. E infatti poi dopo Silvia ha ideato il progetto, poi ci sono io che mi occupo dei disegni, però come aiuto mi sono fatto aiutare da Marco Madoio, che lui si occupa appunto della sceneggiatura e della storia. Infatti noi due lavoriamo insieme, lui si occupa di scrivere la sceneggiatura, la storia, e io disegno. Perfetto, perfetto. Senti, allora intanto andiamo con un altro pezzo che sempre mi hai consigliato, è un pezzo dei Nirvana. Mi hai I detto, guarda, scegli Vegan. tu fra tutti i titoli che mi hai mandato, siccome mi ha ricordato un po' la gioventù anche a me, io passo questo pezzo dei Nirvana e poi proseguiamo la nostra chiacchierata. Bello, questo spacca. E questi erano in Nirvana, un pezzo che ha portato la nostra amica Beatrice Tassone, Un grande ospite in pezzo. diretta. E noi torniamo. Ci senti, Beatrice? Sì, sono Ok, qui. eccoci qua. Allora, noi proseguiamo con la nostra chiacchierata. Prima stavo parlando con il nostro amico Damiano, che anche lui due parole in giapponese le ha dette. Ora te le faccio dire da lui, che ti farà anche la domanda. Ciao Beatrice, sono Damiano. Ciao. Lui, Beatrice, ti confesso, è voce impostata della radio. Lui è uno che viene qua, oltre che una bella presenza fisica, è l'unico che ci si impegna nella dizione. Andiamo con la domanda. Ora che tu finirai la scuola, hai già dei progetti, tipo andare a vivere da sola, lavorare o viaggiare? Sì, ho vari progetti. Al momento, come progetto, ho di andare a lavorare da Pizza Hut. Sicuramente ho anche vari progetti anche di futuri fumetti da fare insieme a Silvia. E per il momento, comunque, sono abbastanza semplice, nel senso che come progetti è quello di trovare un lavoro, di Magari poter anche un viaggetto in comunque. Giappone. Sicuramente poi a settembre di quest'anno ho anche come progetto di fare un bel viaggio in Giappone. Finalmente corono il mio sogno. E per concludere, so che tornerò sicuramente alla domanda di prima, ma ci tenevo anche a dire che lo scopo del fumetto sarà quello di informare sull'autismo e sicuramente, oltre a raccontare una storia che farà intrattenimento, quindi una bella storia e bei disegni, vorrei sicuramente aiutare molte famiglie e molti ragazzi autistici per fare informazione. Allora, il tuo fumetto è anche e soprattutto, diciamo, frutto della collaborazione con la COP delle parti tue, insomma. Quindi, innanzitutto, ti ringraziamo per questa realtà che ci stai facendo conoscere, che qui a Roma non abbiamo modo di aver avuto questi tipi di contatti, insomma. Quindi, ti ringraziamo Lo per so, questo. mi dispiace tanto. Sì, abbiamo Spero che fatto. anche a Roma faranno, spero che anche in altre regioni nasceranno queste realtà. Per il momento è solo Lombardia, però spero veramente che ci saranno altre realtà al di fuori della mia regione che possano aiutare altre famiglie e persone autistiche. Esatto, intanto è importante secondo me iniziarne a parlare, anche perché il tuo percorso bello Sicuramente. serio è importante, insomma, quindi è giusto dare risalto anche a questi tipi di progettualità. E un'ultima cosa di cui non avevamo parlato, però è una cosetta così abbastanza al volo e poi concludiamo così non ti rubiamo altro tempo. Com'è stata l'esperienza di conoscere direttamente Mattarella? Una grande emozione. Ho È visto anche il stato disegno che gli hai bellissimo. regalato ed è uno spettacolo, concedimelo. Grazie mille. Arigato gozaimashita. Grazie. No, è stata una bellissima esperienza. Veramente, il momento in cui ho dato il disegno a Mattarella è stato uno dei migliori perché soprattutto mi è piaciuto molto perché il presidente era molto felice quel giorno. Infatti ha detto anche lui stesso che è stato davvero bene con noi e spero anche che grazie a lui comunque si farà qualcosa anche sul tema dell'autismo e sicuramente quando gli ho dato il quadro è stato bello perché lui si era commosso, aveva detto che era bellissimo. E mi ha fatto veramente piacere potergli consegnare questo quadro, questo regalo, e sono felice che gli sia tanto piaciuto. Perfetto, Bea, senti, noi passiamo un altro pezzo, poi ti salutiamo, ovviamente avrai anche altri impegni, intanto passiamo sempre un altro pezzo che hai scelto tu, Immortal. Bello questo. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, abbiamo in collegamento telefonico la nostra amica Beatrice Tassone, abbiamo chiacchierato un po' con lei del suo fumetto manga Essere Bea. Ti ringraziamo ancora Bea per la tua partecipazione al nostro programma. È stato davvero bello, sicuramente come messaggio finale per chi è a casa, riguardo all'autismo consiglio sicuramente di ascoltare le persone autistiche che vogliono e possono raccontarlo. In seguito spero vi siano anche piaciuti le canzoni che ho scelto e spero vi siano piaciuti e veramente vi ringrazio tantissimo per l'ospitalità. Spero di potervi risentire. Ma certo, guarda, noi adesso lo diciamo in diretta, speriamo anche di conoscerti di persona, speriamo di portare avanti un progetto che ne ho parlato con Silvia, magari appunto poi ci sarà modo innanzitutto per riascoltarci, per risentirci. Ormai ci siamo scambiati i numeri di telefono e quindi ci sentiremo sicuramente. Sì. Ti ospitiamo qui a Roma, visto che ti ho fatto vedere qualche foto e hai detto che lo studio ti piace, lo vivrai in prima persona anche tu insieme a tutti quanti noi della crew di Jolly Roger. Sì, non vedo l'ora, spero di potervi venire a trovare di persona e veramente grazie mille. Grazie a te Bea, è stato un piacere e sicuramente ci riaggiorneremo, poi ci si riascolterà anche tramite podcast sicuramente. E grazie di tutto, noi proseguiamo la puntata e buona Pasqua soprattutto. Buona Pasqua! Buona Pasqua! Isdao medito! Hai capito, pure in giapponese devo farmo dire. Ti auguro buona Pasqua e grazie per averci stata con noi da Milano. Grazie ancora, Bea. Noi andiamo con un altro pezzo, questa volta un pezzo che portiamo noi di Jolly Roger, però ci piacerebbe anche condividerlo con te. Ed è, e va così. Sponda a sponda, inseguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. Luce rossa, squalo in vista, nella mischia sono surfista. Pista fuori dai coglioni, sulla tavola da leoni. Tra campioni e campionatori, buonanotte ai suonatori. Iri iri ari oh, dentro all'acqua seguo il flow. Mai quest'onda mai mi affonderà, gli squali non mi avranno mai. Quest'onda mai mi affonderà, shalala. Poi non tira, resteremo alla deriva tra le onde di questa vita, nelle righe di questa rima, diversi destini, partenze, arrivi. Dov'è che vai? Cosa farai? Ti reggerai o scivolerai? Sai che qui non c'è più tempo perché il sole sta scendendo. Sulla tavola è estate inverno, questa muta che fa da guanto, aspettando un'onda lunga, passa la cera un'altra volta, poi col vento nelle mani, qui il futuro è già domani. Mai quest'onda mai mi affonderà, gli squali E questa è l'onda di Jolly Roger. Saluto, sono passati a salutarci il nostro amico Stefano, la nostra amica Veronica, ci sta anche il nostro amico Lucone che qualche giorno fa è stato il suo compleanno, la mamma di anche della nostra amica Alice, ma abbiamo anche una speaker, la prima speaker che ufficialmente è passata qui dagli studi di Jolly Roger e ci saluta direttamente lei. Ciao a tutti. Ciao a tutti, sei? Tecla. Perfetto, Tecla. Raccontaci, Paolo, visto che sei venuta qua, ci devi dire, a parte che siamo veramente brutti, questo puoi confermarlo? Sì. Perfetto, a noi ci piace così, però siamo simpatici, dai. Sì. In parte, dice, quando state zitti siete ancora più simpatici. Lei è la prima, dice, possiamo dirlo, ragazzina che è venuta in radio e che ufficialmente parla al microfono, autorizzata anche dalla mamma, con tanto di foto, segnaletiche, soprattutto per me. Quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo ringraziare la mamma, che è una cosa buona ha fatta, ci ha portato qua insieme a noi oggi pomeriggio. Grazie mamma. Perfetto, grazie mamma. Noi andiamo con un pezzo musicale e poi ritorniamo qui in diretta. Tanto abbiamo fatto arrossire un po' Tecla, che nonostante tutto è stata bravissima e ha sciolto le sue emozioni parlando anche al microfono. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Room on lock the way we rock it, so don't stop. Ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Ringrazio questa puntata in maniera particolare Radio Sonar che ci sta ritrasmettendo. Saluto anche gli amici di Gemini Network, il network delle radio dipendenti di tutta Italia, e saluto anche Radio Grad che ci ritrasmette tutti i mercoledì sempre dalle 17 alle 18. È tanta roba Jolly Roger, siamo in tanti. La griglia oggi è al completo, questo è il pre-weekend pasquale e ovviamente non poteva che mancare le nostre consuete rubriche. Ora passo il mic al nostro amico Matteo che ci dà i suoi pronostici per quello che è il weekend calcistico. Vai Ciccio. Io sarò l'Inter, vite sarò l'Irana, poi... Napoli, Poi Milan e poi Vitellepoli. Poi Udinese, molta pite l'Udinese. Perfetto. Verona Sassuolo, pite Verona. Perfetto, noi come sempre diciamo tutte le persone che giocano ai picchetti se vincono, siamo qui tutti i venerdì al Brancaleone, via di Levanna numero 11, se volete passate, soprattutto bussate con i piedi. E questi erano i pronostici del nostro amico Matteo, che come sempre, lo ribadisco, le tifoserie qui sono sia romaniste che laziali, quindi abbiamo optato per non fare i pronostici sulle nostre squadre che tifiamo, insomma. Quindi niente, passo il mic invece al nostro amico Luca, che ci darà le sue battute. Mio marito non lo vedo da 6 mesi, avete litigato? No, è andato a vedere le corse delle lumache. Pronto Ciampino? Va bene uguale. No, ma se va bene uguale, c'è una quercia. Voglio fare una battuta sulla temperatura, ma non sono in grado. Due mandarini litigano forisamente e uno dice all'altro: guarda chi ti spicchio. E questo è il momento più apprezzato di quasi tutto il programma. Noi andiamo con un pezzo musicale di un artista che Tecla mi chiedeva alla mamma, che a sua volta chiedeva a me, quindi noi ce l'abbiamo e lo mandiamo. Un pezzo di un artista che piace tanto a noi di Jolly Roger. Un po' una bugia, non piace proprio a tutti, eh. Qualcuno ha detto Agazzaro. È da tempo che non sento più la tua voce al mattino che grida bu, e mi faceva svegliare nervoso, ma adesso invece mi sveglio e sento che mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me sei sempre stanco perché tu non hai orari. È da tempo che cucino e metto sempre un piatto in più per te. Sono rimasto quello chiuso in sé che quando piove ride per nascondere. Mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me senti solo perché non sai come appari. Pensando che ci sei te e mi accorgo che oltre a me non so che c'è. Mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me sei sempre stanco perché tu non hai orari. Parole potrei cantartele qui. E ritorniamo in diretta, questo era il penultimo pezzo, questa è stata una puntata abbastanza particolare, ringraziamo ancora Beatrice Tassone che è stata in collegamento telefonico con noi, gli rifacciamo i nostri più sentiti auguri pasquali, anche noi abbiamo terminato questa nuova puntata. Forza Roma! Bravissimo, così ci piace, questo era il nostro amico Lucone. Quindi niente, io faccio gli auguri a tutti e tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, ci si risente settimana prossima, ancora buona Pasqua. Ciao a tutti e buona Pasqua. Questa è la nostra amica Teca che è assunta a tempo indeterminato, poi parliamo con la mamma per l'ingaggio e niente, salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche anche di Idea Prisma. Buona Pasqua! Buona Pasqua a tutti e auguro una buona Pasqua anche buona guarigione al mio prof di religione Luca Ippoliti. Buona Pasqua e sayonara. Ormai è international il nostro amico Damiano. Buona Pasqua a tutti e tutte, ci riaggiorniamo a settimana prossima. Buon weekend. Big city life, me try to